Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sei minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Si è temuto questa mattina il peggio sulle borse e in particolare sulla borsa di Milano, invece adesso la situazione è migliorata decisamente, anche se resta negativa, ma non è peggiore di altre borse europee. Perde lo 0,70% Milano, mentre Parigi lo 0,90%, Francoforte l'1%, Londra è invariata, l'America col Dow Jones perde lo 0,30%. L'euro però è debole, a 1,2784, debole, insomma, relativamente debole. Dicevo che si è temuto per un insieme, come avviene ormai da giorni, di circostanze, perché da un lato la vicenda di Cipro continua a pesare e è stato smentito il fatto che, anzi, il governatore della Banca Centrale di Cipro ha respinto le richieste di dimissioni, lo ha detto lui stesso. Il governatore della Banca Centrale di Cipro si chiama Panikos Demetriades, e appunto voce di una richiesta di dimissioni avanzata dallo stesso presidente Nikos Anastasiades circolavano già ieri. Però ci sono state tensioni nel vertice dell'Eurogruppo, in cui l'ex presidente Jean-Claude Juncker si è detto preoccupato delle recenti dichiarazioni in cui i sistemi bancari vengono giudicati in base al PIL e vengono quindi accusati di porre rischi alla sostenibilità economica e di sbilancio. In sostanza, cos'è che ha detto l'ex presidente Juncker? Che il salvataggio di Cipro non rappresenta un modello né un precedente per futuri programmi di aiuto nell'area euro, cioè il prelievo forzoso sui conti correnti resterà un'eccezione. Ed è un'ennesima risposta allo scivolone, gaffe, boomerang, non so più come chiamarlo, fatto dall'attuale presidente dell'Eurogruppo, quando due giorni fa dichiarò il modello di Cipro un modello utilizzabile anche, e potrebbe essere utilizzabile anche per altri casi di problemi bancari. Ora, sappiamo tutti che in questo momento parlare di un prelievo forzoso sui conti correnti, se ci fossero altre crisi bancarie, è un'assurdità, perché crea solo panico e ancora non si riesce a vedere quali potrebbero essere le altre banche in difficoltà. Parleremo anche della Slovenia, però, perché da molte parti si dice: attenzione, in Slovenia ci potrebbe essere una situazione simile a quella di Cipro. Nel frattempo però la borsa di Atene è arrivata a perdere il 5% sulla scia delle vicende di Cipro. E oggi i quotidiani greci ne dicono, erano molto duri: Angela Merkel infiamma l'area euro, l'incubo colpisce la Grecia, il barbiere di Berlino, il piano di Angela Merkel per saccheggiare le banche, i titolari di depositi bancari sull'orlo di una crisi di nervi. Insomma, perché? Perché la paura è che poi si applichi anche sostanzialmente alla Grecia. Detto ciò, l'agenzia di rating Moody's ha affermato che il salvataggio di Cipro aumenta le pressioni sui voti di tutta l'area euro, e questo è il fronte, diciamo, europeo. Sul fronte invece italiano ci sono stati un po' di problemi nel collocare i BTP a 5 anni, e ne parleremo subito, nel senso che quelli a 10 anni sono andati bene, nei rendimenti, cioè quanto lo Stato italiano ha dovuto offrire è calato, mentre i BTP a 5 anni, quelli che scadono nel giugno 2018, non si è riuscito a collocarli tutti, e quindi questo lo scopriremo, anche perché il Tesoro cosa fa quando vede che i rendimenti salgono troppo, aspetta a collocare tutti i 4 miliardi per non pagare troppo. Però ne ha collocati 3 miliardi e 900 milioni rispetto all'obiettivo massimo di 4 miliardi. E il rendimento è salito non poco, dal 3,59% al 3,65%. La domanda era superiore all'offerta, non è che sia andata deserta una parte dell'asta. C'è una domanda pari a 4,7 miliardi, cioè 1,2 volte l'offerta. Era però in calo come domanda rispetto a febbraio, quando fu 1,66 volte l'offerta. Questo lo dico perché la domanda non è stata fortissima neanche sui BTP a 10 anni. Lo dico perché la curva dei tassi di interesse, che è quella che noi utilizziamo per capire quanto il paese venga considerato a rischio, cioè più l'Italia deve offrire come interessi, più l'Italia è considerata a rischio, sta lanciando qualche segnale di avvertimento e soprattutto di appiattimento. E cioè la curva normale dovrebbe essere: rendono meno i titoli a breve, a un anno, a due anni, e offri di più se vuoi che qualcuno ti compri il debito per 10 anni, per il BTP a 10 o per il BTP a 5 o a 15. Si sta un po' appiattendo e non è un bel segnale, perché vuol dire che la percezione del rischio viene assimilata a quello a breve con quello a lungo. Lo spread è risalito a 343 punti, la Spagna vicino a 380 punti, quindi il tasso dei bonus a 10 anni risale al 5%, e le conseguenze non sono mancate, così concludiamo questa pagina, sulle banche, perché è vero che la Borsa di Milano non perde più l'1,5%, è solo lo 0,80, però è grazie ad Ansaldo STS che guadagna il 9,54%, a Mediaset che guadagna il 4,80%, a Finmeccanica che guadagna il 2%, a Fiat Industrial che guadagna l'1,60%, a Intesa più 1,60% anch'essa, e a 2A più 0,20%. In realtà, a parte Ansaldo, ieri abbiamo avuto l'ospite responsabile finanziario, ci ha chiarito gli obiettivi del 2015 e restano le voci di un possibile acquisto di Ansaldo STS. Diceva, a parte Ansaldo, le banche invece sono di nuovo negative, non di poco. Il Monte dei Paschi perde il 4,55%, ormai vale 18 centesimi per azione. Mediobanca perde il 3,44%, la Popolare di Milano il 3,5%, in questo momento Popolare Emilia Romagna meno 3,70%, Banco Popolare meno 2,30%, e poi Ubibanca meno 1,70%. Di nuovo pressioni su Telecom Italia meno 2,40%, ma anche su Campari meno 2,30%. Di questo ci occuperemo, quindi asta dei titoli di Stato, preoccupazioni sulla Slovenia. Ho capito, la Slovenia è piccola, anche Cipro è piccola, però sono sempre segnali. E poi le borse, ma anche un giudizio, insomma, a cavallo tra politica e economia, perché il tempo sta scadendo. Bersani ha chiesto un giorno in più. Ma è chiaro che tutto quello che stiamo raccontando, oltre che Cipro, si chiama anche crisi di governo in Italia. È inutile girarci attorno. Il tempo è un bene prezioso, non vi sono state tensioni fino adesso eccessive. Lo spread a 340 è ancora, non è buono, ma è ancora accettabile. Però attenzione, perché i movimenti iniziano a vedersi. Dicevo, 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Allora, altre notizie di questa giornata, sostanzialmente le principali ve le ho già raccontate. L'oro è sceso sotto la soglia dei 1600 dollari l'oncia, quarto giorno consecutivo di ribassi. Il petrolio a 95,88 dollari al barile, e il governo turco ha deciso, parliamo di nuovo di Cipro ma per un altro motivo, ha deciso di sospendere i progetti avviati con l'ENI, perché l'ENI partecipa nel frattempo anche al programma di esplorazione dei giacimenti di gas a largo delle coste di Cipro, e lì c'è una disputa sulle acque territoriali. Sapete che Cipro è divisa in due, c'è la parte greca ortodossa e la parte turca. Il numero uno dell'ENI, Paolo Scaroni, ha detto: sono dispiaciuto per le dichiarazioni del ministro all'energia turco Taner Yildiz, ma l'ENI non ha alcuna intenzione di fare uno stop a Cipro, dove ha ottenuto recentemente una licenza esplorativa. Dalla Gran Bretagna arriva la notizia, e la fonte è la banca centrale inglese, la Bank of England, che alle principali banche britanniche mancherebbero 25 miliardi di sterline di capitali aggiuntivi da raccogliere entro la fine dell'anno per proteggersi da eventuali perdite. La banca centrale inglese non ha citato alcuna banca nello specifico, ma ha detto: attenzione, le banche britanniche potrebbero incorrere in perdite di circa 50 miliardi di sterline nei prossimi 4 anni a causa di multe, e qui forse la vicenda Libor, non lo so, e a causa degli incagli, cioè di quei prestiti che diventano sempre più difficilmente esigibili e prima di diventare sofferenze si chiamano incagli. Volete sapere se a Cipro vi sarà... Dunque, le banche dovrebbero riaprire domani, però vi saranno misure restrittive sui depositi per limitare la fuga di capitali, per cui e anche per gli spostamenti di capitale verso l'estero. In realtà all'interno di Cipro li possono spostare come vogliono, e questo è abbastanza chiaro. Lo ha detto oggi il responsabile della Camera di Commercio cipriota, e le misure di controllo sui capitali di Cipro, stando a quello che riferiscono fonti cipriote, dureranno una settimana e includeranno anche i limiti per l'uso delle carte di credito all'estero, 5.000 euro al mese, e il trasferimento all'estero di contanti, massimo 3.000 euro. Poi arriva il premio Nobel Paul Krugman, che personalmente a noi piace molto, fu uno dei primi a mettere in guardia sui rischi della bolla in cui ci saremmo ficcati. E Paul Krugman dice che per Cipro oggi sarebbe meglio lasciare l'area euro. Cipro dovrebbe lasciare l'euro, il motivo è semplice: stare nell'euro significa una depressione incredibilmente grave che durerà per molti anni, mentre Cipro cerca di costruire un nuovo settore delle esportazioni. Lasciando l'euro e lasciando cadere fortemente il tasso di cambio della nuova moneta, tale ricostruzione verrebbe accelerata in maniera notevole. Allora, c'è un ascoltatore che mi dice: lei è un gufo peggio di altri, deprime la gente. Io una volta si diceva: ambasciatore non porta pena. Se queste sono le notizie, che dobbiamo fare? Inventarci un mondo migliore? Raccontare un mondo che non c'è? Non so, cito un esempio. Oggi l'Istat pubblica il dato sul fatturato di gennaio della nostra industria, meno 1,3% su dicembre, meno 3,4% sul gennaio 2012. È il tredicesimo mese in cui il fatturato della nostra impresa cala. Dobbiamo dirlo? Dobbiamo dire che i mesi sono 7, non 13? Che magari è salito e non calato? Non so. E così come gli ordinativi, a gennaio rispetto a un anno prima, meno 3,3%, pesa il mercato interno, cioè pesa l'assenza di una domanda, l'assenza dei consumi. Tant'è che anche il presidente dell'Istat, nel commentare questi dati, mi riferisco a Enrico Giovannini, dice: la crisi continua soprattutto per le imprese che sono legate ai consumi interni. E mi sembra che a questo punto l'abbiamo capito tutti. So, sul commercio, vogliamo dire che i ristoranti sono pieni? Che la gente va in vacanza? Che i ponti pasquali, i ponti sono tutti quanti occupati? Non sembra così, e oggi l'Istat ci dice che a gennaio le vendite al dettaglio hanno fatto un meno 3% rispetto a gennaio 2012, settimo calo consecutivo. Perfino gli alimentari, meno 0,6%. Diamo però una buona notizia, quando ci sono le diamo, e infatti nel caso del gruppo Telecom Italia, dopo una trattativa che è durata tutta la notte, è stato firmato l'accordo con i sindacati per mantenere i livelli di occupazione. E Telecom Italia aveva individuato 3.000 esuberi, 2.500 saranno gestiti con contratti di solidarietà, 500 lavoratori invece lasceranno la società per andare in pensione, avendo maturato i requisiti necessari, e altri 350 lavoratori saranno gestiti con analoghi ammortizzatori sociali. Previsto anche il telelavoro, la nostra Anna Marino ha raggiunto Vito Vitale, segretario della Fistel CISL. Avevamo la necessità di dover recuperare 2.000, quasi 3.000 esuberi, avevamo la necessità di rilanciare un progetto di produttività che internalizzi il lavoro, avevamo la necessità di mettere in piedi una scommessa tra noi e l'azienda, di cercare di affrontare per questi due anni, attraverso anche il processo di solidarietà e forme di recupero di produttività sia nel caring che nel settore dell'open access, quindi in tutti i settori dell'azienda, che rimettesse in moto un livello di produttività che riporti all'interno internalizzazioni di lavoro qualificato che poi recuperi anche i livelli di esuberi che avevamo sul tavolo. Questo eviterà i 3.000 esuberi? Sì, sì, questa operazione evita gli esuberi, i 3.000 esuberi. Oltre a evitarli, noi nell'arco dei prossimi 2 anni evita fino al 1° aprile del 2014, dove ci sarà una verifica, la societarizzazione del gruppo Kering, sarebbe tutto il call center, il customer del gruppo Telecom, che erano circa 12.000 unità. Abbassare, puttereghe più, la sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, puttereghe più, ladri di Stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, puttereghe più, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blues. In realtà oggi il nostro purtroppo quasi quotidiano appuntamento con gli sprechi dei soldi pubblici ha anche qualche buona notizia. Nel frattempo massima solidarietà e anche un po' di invidia al finanziere Steven Cohen, che si è comprato il dipinto di Pablo Picasso, Il Sogno, per 155 milioni di dollari. È la cifra più alta mai pagata per un quadro da un collezionista americano. Lui è il proprietario della SAC Capital Advisors, la cui fortuna supera i 9 miliardi di dollari, ed è uno dei più grandi collezionisti al mondo. Ma al di là di questo, potremmo prendere esempio dalla Francia, che è in difficoltà anch'essa sulla crisi economica e con poche risorse pubbliche, un deficit anche più alto del nostro, ha deciso di affittare le proprietà statali per fare cassa, non so, per sfilate di moda, per serate private, set cinematografici. Quindi uno può rivolgersi allo Stato per affittare questi luoghi, che spesso sono, anche essendo del demanio pubblico, molto belli e originali. La stanza di un ospedale, il cortile di un carcere, il giardino di un'ambasciata, il galoppatoio della Guardia Repubblicana. Ora, uno sorride, ma lo Stato francese l'anno scorso ha messo in affitto almeno 4.000 siti, raccogliendo più di 10 milioni di euro. Non sarà tanto, ma insomma qualcosa è, no? Nel frattempo, due notizie dalla Sicilia di carattere diametralmente opposto. Allora, nell'ex dimora nobiliare dei baroni Trigona della Floresta, in piazza del Duomo a Piazza Armerina, c'è un museo inaugurato 2 anni fa che vanta 12 impiegati, un direttore, centinaia di casse ricolme di reperti archeologici, ma non ci sono visitatori. Perché? Perché non c'è nulla da vedere, è vuoto. Eh sì, è vuoto, nel senso che dopo milioni di euro spesi per il restauro del palazzo mancano i fondi necessari per l'allestimento del museo, che è un dettaglio, no? Ti manca sempre l'ultimo miglio in questo paese. Una serie di ritardi, ricorso al TAR, hanno sortito l'effetto di far scadere i termini per l'erogazione dei 390.000 euro necessari alla messa in opera delle vetrine espositive. Ma io dico, spendi milioni e poi per le vetrine di questi reperti archeologici non hai 387.000 euro. È bello che i nuovi locali furono inaugurati nel 2011. Il comune di Piazza Armerina aveva donato una serie di reperti che appunto adesso sono in magazzino in attesa dei contenitori espositivi. Non so, Crocetta, mi rendo conto che lei tra Battiato e Zichicchi abbia altri problemi in sti giorni, ma governatore, trovate una soluzione, perché non aprire un museo già fatto con 12 dipendenti, un direttore, milioni spesi, almeno no, valorizziamo il cosiddetto patrimonio artistico-culturale di questo paese. La buona notizia invece arriva da un lato da Palermo e dall'altro da Bolzano, dimostrazione che l'Italia è lunga, è molto diversa, ma delle volte anche unita. E che cosa è successo? Sostanzialmente il responsabile delle risorse umane, stiamo parlando del parco Cassarà a Palermo, il responsabile delle risorse umane si è trasformato in portiere, il geometra direttore di cantiere in vigilante, gli impiegati tecnici amministrativi in pulizieri. Hanno imbracciato la scopa e ripulito i viali del parco Cassarà. Questo nei giorni in cui infuria la polemica contro i dipendenti del Comune di Palermo che non vogliono svolgere mansioni diverse da quelle contrattuali, un gruppo di lavoratori è andato controcorrente. Ha lavorato domenica gratis per garantire l'apertura di entrambi i cancelli dello spazio verde. Vigilanza, custodia e polizia. Così, insomma, i viali del parco erano sporchi e i dipendenti hanno deciso di togliere rifiuti e cartacce. Ora, non può essere questa la soluzione, ma comunque dimostra che ci può essere anche un senso civico nelle azioni. Perché però mancavano i portieri veri? Perché sono tutti part-time e lavorano solo fino al venerdì. Una circolare della Segreteria Generale vieta di utilizzarli in giorni in orari diversi. Quando ad ottobre il comune ci aveva provato, la CGL aveva presentato una denuncia al giudice del lavoro che ha dato ragione al sindacato. E Luca Orlando, il sindaco, ha detto che c'è una disorganizzazione intollerabile. Sì, un giorno entreremo anche nelle tutele, nessuno voglia togliere le tutele, ma è normale che poi un portiere di un parco smette di lavorare il venerdì, quando di solito i bambini e le coppie al parco ci vanno il sabato e la domenica, non alle 3 di pomeriggio di mercoledì. Massimo rispetto per la CGL e per il giudice del lavoro, però le sentenze sono sempre in una direzione. Che cavolo, no? Vabbè, bravi e complimenti, anche se non può essere la soluzione, a tutti i geometri, i direttori, gli impiegati che si sono messi a ripulire il parco Cassarà a Palermo, così come bravo anche al governatore altoatesino Luis Drunwalder, perché ha deciso che il cappuccino, le brioche, gli assessori se li pagheranno di tasca propria. Mi rendo conto che non sia un grosso esborso. Però si dibatteva in Alto Adige se fosse politicamente corretto che il genere di conforto per la pausa caffè li dovesse pagare il contribuente. È bello che in un paese si discute di questo. Ma io non... Dategli le brioche, diceva quella lì, no? Maria Antonietta. Vabbè, alla fine Drunwalder oggi, che va sempre difeso il fatto che le vettovaglie durante le sedute dovessero essere pagate dalla mano pubblica, come le penne, le biro, le carte per prendere appunti. Sì, nel privato non succede necessariamente così, eh? Cioè, se io sto lavorando, il caffè me lo pago, magari ho delle agevolazioni. Boh. Va bene, una piccola cassa nella quale ogni assessore verserà qualche decina di euro e al quale si attingerà il momento di pagare il conto delle brioche e del caffè. Prima che mi scatti la lacrimuccia, perché sono veramente distrutto dal dolore per gli assessori dell'Alto Adige, chiudiamola qua. No, non faccio l'applauso, facciamo l'applauso ai dipendenti del Parco Cassarà, agli assessori dell'Alto Adige. No, mi sembra un minimo atto di civiltà pagarsi la brioche e il caffè. Applauso ai dipendenti del Parco Cassarà. Torniamo sui temi invece non più seri, perché anche questi sono seri, ma di carattere macroeconomico. Che cosa sta succedendo al mercato delle obbligazioni, dei titoli di Stato? Ripeto, quando un paese chiede prestito, questo fa l'Italia ogni volta che deve rifinanziare mensilmente il suo debito, va sul mercato e offre, non so, 4 miliardi di BTP a 5 anni, cioè chiede un prestito al mercato, ai risparmiatori, per 5 anni in cambio da un tasso di interesse, un po' come quello che fa la banca quando presta i soldi. E più alto è quello che l'Italia deve offrire, più a rischio è il paese. Prima nota, per capire poi il ragionamento che faremo. Seconda nota, di solito in un paese normale rendono di più i prestiti che vengono fatti a lungo termine, perché uno dice, ma da qua a 15 anni chissà cosa ne sarà dell'Italia, allora chiedo un tasso di interesse più alto, una remunerazione più alta rispetto ai prestiti a breve, un po' come avviene anche delle volte per le banche. Ti chiedi soldi a un anno, il tasso è questo, te li chiedo e te li ridarò fra 10 anni, il tasso è più alto. Questa è la famosa curva dei rendimenti: rendono di meno i bot a un anno e molto di più i BTP a 5 anni. Moria Longo del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, l'ultima cosa che voglio è creare effetti di panico e sensazionalistici. Però, noi per settimane siamo andati avanti a dire da dopo le elezioni i mercati sono alla finestra, non ci sono particolari tensioni, non ci sono scenari peggiori in Italia che nel resto d'Europa. Oggi qualcosa, qualche scricchiolio, poi uno scricchiolio si può anche riparare, non so, con dell'olio, con del grasso, però è uno scricchiolio, lo abbiamo visto, non sui BTP a 10 anni, tutti collocati in scadenza al 2023 con un tasso in calo dal 4,83 al 4,66%, ma sui BTP a 5 anni, dove il Tesoro ha preferito non collocarli tutti, pur essendoci una domanda, seppur in calo la domanda, e i rendimenti sono saliti dal 3,59 al 3,65%. Che cosa vuol dire questo? E poi, visto che anche lo spread è salito, ma è salito anche quello spagnolo, è più effetto Cipro e più effetto mancato governo? Sono entrambe le cose. In Italia oggi il mercato ha subito un bel po' di pressione per il no reiterato, ripetuto, scontato probabilmente, ma comunque un nuovo no del Movimento 5 Stelle a Bersani. Questo ha pesato sul mercato obbligazionario e anche sulle aste, ma sullo spread e così via. Dopodiché la tensione che è nata da Cipro, e soprattutto non tanto la ristrutturazione di Cipro, quanto il dibattito che ne è venuto dopo, quando il presidente dell'Eurogruppo ha detto che il modello Cipro, che pagano solo i privati per il genio, questa cosa ha creato una serie di malumori, perché comunque di incertezze. L'incertezza deriva da tanti aspetti, ma uno soprattutto secondo me è centrale: il fatto che l'Europa continua tutte le volte a dimostrare che le regole del gioco non valgono. Ogni volta che si fa una nuova partita le regole si cambiano durante il gioco. Questo impensierisce gli investitori, perché tutti sanno che l'Italia non è Cipro, non ha nulla a che fare con la situazione di Cipro. Cipro è veramente un caso unico. Però se ogni volta si cambiano le regole del gioco, allora a questo punto uno si domanda quale sarà la prossima regola, quando succederà qualcosa. Io vorrei una risposta che non avrò mai, ma il presidente dell'Eurogruppo, Dijsselbloem, come cavolo si pronuncia, si è reso conto di quello che ha detto oppure no? Perché poi l'hanno bacchettato ieri i membri della Banca Centrale Europea, oggi l'ha bacchettato il suo predecessore Juncker, che ha detto ma stiamo scherzando, che uno possa anche solo ipotizzare che se c'è una banca dell'area euro in difficoltà ci muoviamo come con Cipro, cioè prelevo forzoso non sugli azionisti, gli obbligazionisti, che quelli da sempre hanno una quota di rischio, ma addirittura sui correntisti. Io vorrei capire se Dijsselbloem si è reso conto di questo oppure no, si è reso conto che ING in Olanda e Commerzbank in Germania sono state salvate con i soldi dello Stato, ma nessuno ha detto no, non vogliamo i soldi dei contribuenti, bisogna fare prelievo forzoso sui conti correnti. Mori. Lui in realtà in Olanda si è comportato in maniera abbastanza simile, perché recentemente, pochi giorni prima di prendere la carica di presidente dell'Eurogruppo, ha nazionalizzato la banca SNS, una delle maggiori banche olandesi, l'ha nazionalizzata e ha applicato sostanzialmente lo stesso identico diciamo schema. Ha espropriato, ripeto espropriato, non è mai successo un esproprio nel mercato obbligazionario, tutti gli obbligazionisti junior, cioè quelli che hanno obbligazioni diciamo più rischiose rispetto alle obbligazioni senior della banca, tra cui ci sono anche tanti risparmiatori italiani, li ha proprio espropriati, gli ha tolto i titoli, li ha annullati e gli ha dato un risarcimento pari a zero. Perché lui, applicando alla propria banca SNS, quando è in veste di ministro delle finanze olandese, ha detto: il contribuente paga per quanto serve, perché ha comunque lo Stato ha nazionalizzato la banca, ma poi i privati devono assolutamente pagare totalmente tutto il resto della bolletta, diciamo. E lo stesso principio, in maniera diversa, si nota nelle sue dichiarazioni dell'altro giorno. Vediamo di capire. Non sto dicendo che le condivido, ho detto no, che così è il suo pensiero. Come avvenne purtroppo per noi nel caso Cirio e nel caso soprattutto Parmalat, è chiaro che gli azionisti e purtroppo anche i creditori, cioè gli obbligazionisti, quando c'è un fallimento e ci rimettono qualcosa, anche i creditori della Grecia ci hanno rimesso con l'haircut, con il taglio che ha fatto la Grecia al suo debito, per cui io non mi sorprendo. Purtroppo se tu sei azionista di un gruppo concorri agli utili ma anche ai rischi e quindi anche alle perdite. Quello che mi sembra assolutamente inaccettabile è il prelievo forzoso sui conti correnti. Voi dite o dicono a Cipro però erano conti correnti particolari di miliardari russi, vabbè, insomma, diciamo che Cipro è Cipro. Ma se tu ti svegli la mattina e dici beh, faremo così anche per altre banche europee qualora avessero difficoltà, stai dicendo a tutti i correntisti dell'area euro: oh, se la vostra banca ha difficoltà non la pagheranno solo gli azionisti e gli obbligazionisti, potete pagarla anche voi come correntisti. E cosa fa un correntista a quel punto? Tira via i soldi, more, questo è. Sì, il punto però qua bisogna mettere un puntino sulle i, perché Cipro ha delle banche veramente strane. A Cipro le banche non hanno nulla altro se non depositi. Siccome hanno sempre offerto, tra l'altro Cipro è un paradiso bancario e sostanzialmente fiscale, soprattutto prima dell'ingresso nell'euro, e ha sempre offerto sui conti correnti tassi di interesse altissimi, la gente da tutto il mondo, soprattutto dall'Europa e dalla Russia, ha portato i soldi nei conti correnti delle banche. Morale, le banche di Cipro non solo sono 8 volte più grandi del PIL, ma hanno tutti i depositi, cioè le passività delle banche di Cipro sono per il 90% depositi. Le obbligazioni, se si volesse aggredire l'obbligazionista della banca di Cipro, non esistono obbligazioni. Le banche di Cipro hanno solo obbligazioni per 1,7 miliardi. E qui la specificità di Cipro. Hanno dovuto aggredire i depositi superiori ai 100.000 euro perché non c'era nulla altro da aggredire. Vabbè, se diciamo la stessa che cosa accadesse a una banca italiana, scongiurando, facendo le corna ovviamente, ci sono obbligazionisti, ci sono gli azionisti, gli obbligazionisti, per cui la probabilità che anche qualora successo qualcosa del genere in Italia, che si vada ad aggredire il correntista è veramente remota, perché in Italia le banche hanno altro, hanno obbligazioni, hanno tante cose da aggredire. A Cipro hanno solo conti correnti, punto. È chiaro il caso Cipro. Adesso ho il meteo e la pubblicità, dopodiché vorrei invece capire il fronte italiano, perché è inutile nascondersi che quando Moody's dice, una delle agenzie che danno i voti al debito dei paesi, che sta guardando gli sforzi di Bersani per formare un governo per poi dare un voto sul rating italiano, e l'esito del tentativo del leader del PD avrà riflessi nel breve termine sul voto al debito italiano, è chiaro che qua, visto le difficoltà, c'è una componente anche nostra politica. Ne riparliamo dopo il meteo e la pubblicità. A chi scrive cambiate solfa, avete stufato con questa storia di Cipro, vabbè, non so, evidentemente lei non ha un conto corrente, non è preoccupato dalle dichiarazioni del presidente dei paesi che aderiscono all'euro, che dice che il prelievo forzoso sui conti correnti si possa applicare anche a altre banche in difficoltà. Sono felice per lei, mi dica dove abita che le vengo a trovare quando sono depresso. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Moria Longo, al di là degli effetti e del mitico Dissemblum, quanto pesa la variabile politica italiana? Poi arriveremo a capire con Guido Gentili che scenario si stia aprendo, perché insomma ormai il tempo è finito, purtroppo sta andando come molti avevano previsto, ma comunque purtroppo lo dico solo perché un governo fa comodo a qualunque paese. Ma quanto pesa il giudizio di Moody's, l'aumento dello spread e soprattutto quest'asta di BTP a 5 anni che il Tesoro ha preferito bloccare a un certo momento perché i rendimenti stavano salendo troppo? Sì, premesso che il Tesoro sempre spesso ogni taglia certo, l'asta senza fare un suo diritto, lo fa per ottimizzare il costo della raccolta e non pagare tassi troppo alti. Detto questo, tutto questo è conseguenza in gran parte dell'incertezza politica, sia il monitor in un certo senso di Moody's, sia il rialzo dello spread è conseguenza di questa incertezza politica che inizia a pesare sempre di più. Il mercato ha dato tempo all'Italia, il mercato continua a sperare che l'Italia faccia un governo, ma perché dal punto di vista di un investitore internazionale ha già visto lo stesso film, per esempio in Grecia, paese molto più disastrato di noi, anche lì i due partiti che sono combattuti per anni hanno fatto nuove elezioni, rifatto elezioni dopo poche settimane e alla fine un governo di coalizione l'hanno fatto. In altri paesi si è fatta la stessa cosa, allora quel mercato è convinto che anche in Italia, forse non ci conosce abbastanza bene, comunque il mercato è convinto che anche in Italia prima o poi qualcosa accada e che alla fine un governo di grandi coalizioni, larghe intese, chiamiamolo come volete, qualcosa si faccia. Per cui adesso più passa il tempo e più per esempio il Movimento 5 Stelle come oggi ribadisce per la 200ª volta il suo no, ovviamente le tensioni aumentano. Però ancora c'è questa convinzione, in fondo ancora non sono giocate tutte le carte, dobbiamo ancora vedere come va a finire la partita, per cui la tensione sta montando, un po' come la panna montata, però ancora diciamo c'è il beneficio del dubbio e ripeto, in base alle esperienze in altri paesi altrettanto travagliati, ricordate come sono andate le elezioni in Grecia con il grande gente in piazza, c'è stato grande dibattito, alla fine il governo l'hanno fatto, è ancora lì, per cui il mercato pensa che anche l'Italia in fondo possa seguire la stessa strada. Spera che male che vada vi sarà un governo di scopo, un governo da qualche parte dobbiamo averlo, anche perché questo che è uscente perde i pezzi letteralmente. Si perde i terzi. Vabbè. Andiamo avanti invece con il resto, perché ho visto salire comunque anche lo spread spagnolo. E allora lo dico per rispondere a alcune domande che arrivano sia su Facebook che, che al 349-238-6666. È chiaro che c'è, come dice chi ha studiato, il combinato disposto tra Cipro, preoccupazioni che possa essere un modello anche per altri casi europei, da un lato, e poi noi ci aggiungiamo pure la variabile politica. Quali sono le prossime scadenze come rifinanziamento del nostro debito, Moria? Ce ne sono di grosse, perché questa è una settimana importante, ma non drammatica, perché e soprattutto che cosa dovremmo andare a guardare sulla curva, perché io spiegavo prima come funziona la curva, ma che cosa dovremmo vedere? Che non si alzino troppo le scadenze a breve, immagino. Le scadenze a breve non si stanno alzando più tanto, in fondo sono sempre basse, ma anche i rendimenti dei BTP decennali, quinquennali, più che altro perché tutti sanno che c'è comunque lo scudo azionabile, anche se è difficile da azionare, della Banca Centrale Europea. La Banca Centrale Europea potrebbe, qualora l'Italia lo chiedesse, sottostando alle sue condizioni, comunque potrebbe acquistare titoli di Stato da 1-3 anni. Uh-huh. E questo abbasserebbe notevolmente, anche perché Draghi ha detto che se lo facesse potrebbe fare per importi limitati, quindi questo sta tenendo bassa la pressione sui nostri rendimenti. Per di più, per esempio, sui titoli invece a lunghissima scadenza, per esempio il 15 anni e 30 anni dei BTP, c'è una domanda che sta crescendo da parte per esempio delle assicurazioni tedesche, le quali hanno un problema perché stanno investendo tantissimo in bund che rendono pochissimo, hanno bisogno di garantire rendimenti alle loro polizze vita, quindi stanno comprando un po' di titoli ad alto rendimento, tra cui BTP. Questo un po' ci sostiene, però non può durare a lungo. Questa fuga da New York per mettere un po' d'allegria al programma e di divertimento. Infatti, per divertirci parliamo adesso di Slovenia. Non so come posso prenderla, con un sorriso? Crescono i timori per un nuovo terremoto nell'area euro che vede nella Slovenia la prossima vittima. Non so, posso dirla così? No. Allora, la Slovenia farà anche 2 milioni di abitanti ed è sicuramente non un paese pesante nell'area euro. Però ha avuto un PIL che ha fatto meno 2,3% nel 2012, meno 2% lo farà quest'anno, il deficit è al 5%, il debito non è così male, al 60%, però era al 16% del PIL nel 2008, la disoccupazione al 10%. E quello che preoccupa è vedere che i rendimenti dei titoli di Stato sloveni hanno superato il 6% a quelli a 10 anni. E tra l'altro sono cresciuti proprio dopo l'operazione di salvataggio di Cipro. Voi direte: che ci azzecca Cipro con la Slovenia? E beh, è il discorso del domino e del panico o delle tensioni che facevamo prima. Le banche slovene in maggioranza di proprietà dello Stato scontano circa 7 miliardi di euro di prestiti inesigibili. Voi direte: non sono tantissimi? No, sono tanti, sono il 20% del PIL. È un po' come se noi, che facciamo circa 1600 miliardi di euro di PIL, avessimo il 20% di questo, no? In sofferenze bancarie, cioè 320 miliardi, immaginatevi che roba. E poi nel 2012 le banche slovene hanno chiuso con un totale di 600 milioni di perdite. Il neo premier Alenka Bratusek ha escluso aiuti, però vorrei capire che ne pensa chi fa consulenza sui mercati finanziari, sugli investimenti nei mercati finanziari e soprattutto dell'Europa dell'Est. Dottor Luca Pierazzi, amministratore di Advance Advisor, buonasera. Buonasera. Quanto è forte il timore sulla Slovenia? E visto che lei fa consulenza sull'Europa dell'Est, se vuole anche citarci qualche altro caso, a noi va bene. Ma mi sembra che quello della Slovenia basti, avanzi. Bene. Allora nell'effetto domino di cui parlava prima, effettivamente è una delle tappe potenziali della crisi itinerante che è passata per paesi del nord, del sud Europa, ha girato da Cipro e sta tornando nel cuore dell'Europa. Ecco, mi dice quanto forti sono i vostri timori, perché vorrei capire, lei in questo momento, se io fossi un suo cliente, mi suggerirebbe un investimento in Slovenia oppure no? Assolutamente no. Ah, bene. Soprattutto se fosse un cliente con una predisposizione alla protezione del capitale, assolutamente no. Anche per un altro motivo, la crisi slovena è una crisi del sistema finanziario. I dati che riportava prima sono molto chiari, questa è una crisi delle banche. Vi sono due banche principali, che sono la Nova Ljubljanska Banka e la Nova Kreditna Banka Maribor, che rappresentano la maggior parte del sistema bancario del paese, e queste due banche sono effettivamente in una situazione di stress molto molto forte. L'investitore deve pensare che su queste due banche non esiste una ricerca da parte di broker internazionali, da parte di banche, così come esistono invece ricerche sugli altri paesi o sui singoli titoli quotati nelle borse europee. Quindi la domanda da farsi ancora prima di dire investirei in questo paese, la domanda è: vi è ricerca su questo paese e sulle banche di questo paese attraverso la quale posso conoscere il reale stato delle cose? Beh, per l'investitore comune la risposta è no. Ecco, mi dica una cosa però, molto, in maniera molto diretta, ma al di là del fatto che lei è stato molto esplicito, no, non conviene investire in Slovenia in questo momento nei titoli di Stato e in Slovenia, ma lei ritiene che la situazione sia così pesante? Perché quando io vedo che le sofferenze bancarie slovene sono il 20% del PIL, è come se le sofferenze bancarie italiane fossero il 20% del PIL, cioè a 320-360 miliardi di euro, voglio dire, lei ritiene che il prossimo aiuto verrà chiesto alla Slovenia? Lasciamo stare quello che dice il Premier che è appena stato eletto, ma la sua opinione? Ma la mia opinione è che difficilmente ne potranno uscire senza degli aiuti. È evidente che il Premier deve essere più realista del re, è nel suo ruolo e male farebbe a dire diversamente. Però mi sembra che sia una situazione dalla quale difficilmente il paese e le sue banche possono uscire senza degli aiuti, nel senso che il capitale di questi istituti è stato decimato dagli eventi degli ultimi anni, dalle perdite degli ultimi anni, e per chi analizza i bilanci di queste banche è evidente che alcuni fenomeni di degrado del patrimonio si sono fermati, altri no. Faccio un esempio che riguarda Nova Ljubljanska Banka, che appunto è la più grossa banca del paese. È una banca che ha preso partecipazioni in società, ha diversificato aprendo e comprando banche in altri paesi, aveva e ha attività di factoring, di leasing e via dicendo, una specie di multinazionale. Le attività creditizie negli altri paesi sono state chiuse o sono in via di chiusura, quindi c'è una forte ritirata delle attività all'estero, che già la dice lunga sulla capacità di impiegare capitali. Le attività collaterali a quella tipicamente creditizia, quindi il factoring, leasing eccetera, hanno creato dei buchi giganteschi e oggi stanno ricominciando a dare qualche risultato, ma sono delle attività di più breve periodo, dove la crisi si risolve più facilmente. Dove ancora invece vi è una degenerazione delle attività, del valore delle attività, è nell'area creditizia. Il credito sta continuando a distruggere capitale. Ecco, Moria Longo, in realtà, siccome si stava divertendo molto nel programma, è rimasto qua in studio e volevo dire una cosa anche sulla Slovenia. Io vorrei però capire una cosa, in una battuta, i più grandi creditori della Slovenia sono i tedeschi? Perché io da sempre ricordavo un paese molto vicino alla Germania e all'Austria. Assolutamente sì. No, auguri allora, perché lo erano anche nei confronti della Grecia e di Cipro come paesi europei, ma auguri agli sloveni. Moria, rapidamente, che abbiamo due minuti. No, la cosa che colpisce della Slovenia è come è nata questa crisi, nel senso è la qualità di questi suoi crediti in sofferenza delle banche. La crisi nasce perché la Slovenia ha fatto moltissime privatizzazioni quando è uscita dalla Jugoslavia. Queste privatizzazioni sono state, le aziende di Stato sono state vendute a fondi, investitori con credito bancario, con finanziamento bancario, sono state vendute a leva. Il problema è che adesso che, è arrivata la crisi, la leva si è ritorta contro le stesse banche. Quindi la peculiarità delle banche di slovene è che buona parte di queste sofferenze non sono mutui come in Spagna, ma sono crediti verso per acquistare le stesse società di Stato. Quindi qua stanno contemporaneamente, hanno problemi sia le aziende sia le banche, che sono quindi l'intera economia. E dire che hanno dei vini bianchi buonissimi in Slovenia. Ma non si vendono in banca. Non bastano. Allora... le chiedo se abbiamo un minuto, chiedo in regia di guardarmi un secondo se abbiamo un minuto. Ce l'abbiamo? No? Sì? Boh. Dottor Pierazzi, mi dice se c'è qualche altro paese dell'est Europa prima di richiamarla, così ci prepariamo, segniamo il numero. Per adesso occupiamoci della Slovenia, sicuramente la situazione più delicata. È molto importante che le autorità europee fermino questo domino, perché altrimenti l'effetto a catena lo alimentano i mercati con la psicologia e con il timore di nuove perdite. Sette minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. No, rido perché alcuni messaggi di critiche fanno sempre piacere. Allora, abbiamo chiarito che insomma non conviene investire in Slovenia, e mi sembra che il giudizio di chi si occupa di fare consulenza sugli investimenti in Est Europa fosse molto molto chiaro, via dalla Slovenia come investimento. Ripeto, è un piccolo paese e il neo premier che di centrosinistra, Alenka Bratušek, ha negato aiuti internazionali, però si sta ragionando in Slovenia se istituire o meno una bad bank, una banca dove prendersi tutte le cose in perdita, che si accoglierebbe tutti i crediti inesigibili per poi ricapitalizzare le banche prima di privatizzarle, un piano già votato tra l'altro dal Parlamento sloveno. Questo per quello che riguarda la Slovenia, e ripeto, meglio parlare adesso che dopo. Ora però c'è la borsa, già vi anticipavo gli indici, meno 0,90 Milano, meglio di come non fosse partita questa mattina la borsa italiana, meno 1% Parigi, meno 1,15 Francoforte, meno 0,20 Londra e meno 0,34% in questo momento. Gli Stati Uniti con un euro sotto quota 1,28 a 1,27,69, allora borsa sia. A far migliorare Milano ci hanno pensato soprattutto Ansaldo STS più 11,1% e Mediaset più 5,30%, Finmeccanica più 1,70%, Fiat Industrial più 1,70% anch'essa e Intesa San Paolo più 0,90%. Male le banche, Monte dei Paschi, le altre banche, meno 4,30% Monte dei Paschi, meno 4,20% Emilia Romagna, meno 3,60% Mediobanca, meno 3,40% la Popolare di Milano. E su questo, tra l'altro, su Monte dei Paschi sarà interessante capire se poi c'è anche un ragionamento sulle nuove perquisizioni, oggi le hanno raccontate anche i nostri GR. Ceo Condina, Radio Cori, sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a voi. Dunque, di Cipro, dell'asta, di BTP abbiamo già parlato. Prima notizia su Ansaldo STS. Ieri abbiamo avuto ospite il responsabile finanziario, abbiamo commentato gli obiettivi che avevano annunciato e diffuso sul 2015, puntano ad avere più ordini e quindi aumentare i ricavi, però non è che la borsa ieri avesse fatto chissà che cosa. È solo sui dati oppure c'è qualche indiscrezione su chi potrebbe comprarsela? Ma per adesso no, per adesso l'influenza sia dai dati, come dicevi giustamente tu ieri, comunque insomma ieri non c'era stato un balzo così significativo. C'è da dire che oggi in borsa si parla anche di appeal speculativo del titolo, perché di fronte a diciamo a obiettivi di questo tipo, una profittabilità dell'azienda che potrebbe crescere su questa lunghezza d'onda, beh allora sicuramente potrebbero figurare all'orizzonte diversi acquirenti che fino ad oggi non si sono mai concretizzati. Non è un caso che tra i titoli positivi oggi ci sia anche Finmeccanica, che ha guadagnato l'1,7% e che sicuramente beneficerebbe di una cessione a prezzi interessanti della controllata. Ancora, per quello che riguarda invece chi male si è mosso, beh, le banche le archiviamo con lo spread, le tensioni sui titoli di Stato? Anche in Europa sono andate male, sì. C'è una tensione ancora, ci sono ancora tensioni su Cipro, poi c'è anche un'incertezza politica italiana che contribuisce diciamo in tutta Europa ad alimentare le vendite sui finanziari, poi indubbiamente c'è anche l'allargamento dello spread. Andiamo poi su di Ansaldo, abbiamo detto Mediaset, che è l'altro titolo molto forte oggi, più 5,30%. Qui c'è stato un po' un effetto all'incontrario, come sì. Spesso accade, diciamo il titolo perde molto quando si avvicina a dei dati che il mercato prevede essere negativi, in effetti sono stati molto negativi, è già stato detto che è stato il primo esercizio in rosso della storia dell'azienda, un rosso di 287 milioni e oggi evidentemente gli operatori hanno preferito diciamo acquistare il titolo anche dopo che il gruppo ha indicato per il futuro buone prospettive di redditività. Anche se purtroppo per i media, come sappiamo, le prospettive non sono così rose. No, a noi ce lo dice, cioè, ce lo diciamo addosso. Ancora Telecom. Allora, su Telecom qui ci sono delle novità, nel senso che ci sono le dichiarazioni di Marco Fossati, che se non ricordo male è il 5% di Telecom, però correggimi perché... Ah, no, il 4,9. Correggimi, era in senso forte, ma comunque è quasi il 5%. Meno 2,93%. Sì, questa partecipazione così corposa però non gli è bastata quando è stato nominato insomma l'ultimo CDA per avere un posto in consiglio, quindi Fossati è rimasto un po' ai margini e oggi ci sono state insomma queste voci sul fatto che avrebbe chiesto all'ufficio di presidenza di Telecom di integrare l'ordine del giorno dell'assemblea inserendo un voto di fiducia al management, diciamo che è un'iniziativa che potrebbe portare diciamo ulteriori dissidi, ulteriori contrasti per quanto riguarda la governance di Telecom. Già ieri Telecom aveva perso molto in relazione a un rifinanziamento che secondo indiscrezioni era stato effettuato a termini più onerosi rispetto al passato, sicuramente insomma il momento non è facile per l'azienda e in borsa i riflessi si vedono. Ancora tra i titoli, volete sapere anche degli energetici, beh negativi ma non di tanto, Enel meno 1%, Eni meno 1 e poco altro. Faccio notare che anche Campari perde il 2%, Enel Green Power il 2,1% e ST Microelectronics il 2,33%. Ancora su Finmeccanica, qui c'è l'effetto Ansaldo più 1,76%, si unisce anche Fiat che si era mossa bene anche su Fiat Auto, poi ho visto invece un ripiegamento, trovassi anche il titolo Fiat Auto sarei contento. Comunque Fiat, ecco, Fiat Industrial più 1,72%. E poi Fiat Auto 1,76 mi è scomparso dal listino. Avrò problemi io col computer. Finmeccanica e Fiat. Meccanica, sì, dicevamo c'è stato appunto questo effetto Ansaldo STS, anche ieri ricordiamo nei giorni scorsi Finmeccanica aveva perso parecchio terreno, oggi diciamo qualche acquisto ma un titolo che resta comunque sotto quota 4 euro se pensiamo da dove era partito in passato. Fiat, anche qui siamo diciamo l'andamento è quello che hai detto sostanzialmente tu, anche qui siamo attorno ai 4 euro, certo il mercato resta sempre in attesa di quelle che saranno poi le mosse su Chrysler, un'eventuale fusione ormai dichiarata quasi scontata con la casa automobilistica americana. Allora, migliori e peggiori in assoluto oggi in borsa, il miglior titolo di Mail più 15,70, Ansaldo, ne abbiamo parlato, più 11, Neurosoft più 10, Emer Tecnimont più 5,41 e poi Mediaset, anche di essa abbiamo parlato. Peggior titolo, Mondo TV France meno 12%, ma questa non è una debuttante? Mondo TV France, non è... che ne so io, no. No, non mi ricordo. Enertronica meno 12%, Telefonica meno 8%, Edes meno 6,11%, Seat pagine gialle sulle ordinarie meno 5,56% e Biancamano meno 5,34%, negativo anche il Credito Valtellinese che ha perso il 4,70%. Grazie a Ciao Condina, Radio Cori, Sole 24 Ore. E comunque io voglio raccogliere l'invito dell'ascoltatore che diceva il programma è un po' noioso, cercate di divertirci, di essere più divertenti, perché adesso parliamo dell'altro elemento che sta penalizzando, preoccupando, creando tensioni sui mercati, sul nostro spread, sul rendimento delle obbligazioni, e mi riferisco allo stallo politico, alla difficoltà per essere buoni nel trovare un nuovo governo, ma vogliamo restare allegri. E sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventan tristi se noi piangiamo. E sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventan tristi se noi piangiamo. Oh, pensare di fermare l'intelligenza con gli insulti è come pensare di fermare l'acqua con le mani. Uno può insultare finché sta fuori dal palazzo. Quando è nel Parlamento deve dire che cosa vuol fare per il Paese. Decidono così, decidono di non consentire, benissimo, lo dicono non a Bersani, che non si rompe la testa, lo dicono all'Italia. Così vale per tutte le altre forze politiche. Dicessero qual è la soluzione. Sul PDL vale lo stesso ragionamento. Io non, dice, non fai l'accordo. Io ho detto quel che ho detto, l'ho detto in privato, lo dico qui. Questa è la proposta. La consentono? Non la consentono? Si prendono le loro responsabilità. Io credo di aver avanzato una proposta che sia capace di rispondere sia a esigenze di cambiamento che vengono certamente anche dal Movimento 5 Stelle, non in modo esclusivo, gli ho detto stamattina, sia esigenze di corresponsabilità anche di forze che intendono stare all'opposizione, che hanno diversi orientamenti, ma che possono collaborare a una riforma della Repubblica. Inviterei a una riflessione tutti quanti, perché qui non è purtroppo non è Ballarò. Purtroppo non è Ballarò, che se siamo in streaming, qui è una roba seria, Cioè guardate che qua è una roba seria, i prossimi mesi sono una roba seria. Benissimo, quindi qui non è Ballarò. E sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventan tristi se noi piangiamo. E sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventan tristi se noi piangiamo. Oh, Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore, buonasera. Eccomi, buonasera. Sei allegro? Beh, insomma. Allora, l'ultimo dato sulla spread, giusto per mettere un po' di allegria, è a 350 punti base, altino rispetto alla media, alto rispetto alla media. I BTP a 10 anni hanno visto una buona asta, a 5 anni invece più problemi. Il tasso è salito al 3,65% oggi e il Tesoro ha preferito non collocare tutti i 4 miliardi di BTP a 5 anni per non spendere troppo, diciamolo così. E poi Moody's, l'agenzia di rating, che dice, beh, insomma, stiamo vigilando sul tentativo di Bersani per formare un governo, perché l'esito di questo tentativo avrà riflessi nel breve termine sul profilo, cioè sul voto al debito del paese. Facci divertire, Guido Gentili, perché mi sembra che la situazione stia assumendo toni così quasi melodrammatici. Prego, Guido. Sì, melodrammatici o anche surreali, possiamo scegliere, diciamo, dopo un mese, ha passato oltre un mese dal voto del 25 di febbraio, si è scoperto, e, diciamo così, Bersani lo ha certificato oggi, nella giornata di oggi, che i grillini non ne vogliono sapere di votare la fiducia a questo governo. Quindi questo era un quadro, devo dire, già chiaro dai primissimi giorni del dopo voto su quelle che erano comunque le intenzioni del partito del Movimento 5 Stelle, e quindi adesso siamo arrivati a questa dichiarazione in cui Bersani ha ammesso questo. Ci siamo arrivati dopo un mese e nel bel mezzo di una fase in cui i mercati hanno atteso, diciamo, con pazienza anche, devo dire, lo sviluppo della situazione. Questo a riprova che il denaro è intelligente, diciamo, come da un libro di successo che è uscito poco da questi giorni di Mingardi, di Alberto Mingardi, e quindi i mercati si sono comportati bene, con intelligenza, hanno aspettato, ma ora, diciamo, sta per finire questa pazienza. L'abbiamo vista con l'asta in particolare dei bot dei titoli a 5 anni, e l'abbiamo visto con l'annuncio di Moody's che verificherà quello che è lo sviluppo della situazione, quindi l'incontro che ci sarà tra Bersani e Napolitano sullo sbocco di questa crisi, e quindi ci preannuncia già che probabilmente, diciamo, abbasserà il rating se la situazione permarrà incerta come l'abbiamo avuta fino a questo momento. Sì, e dico, lo spread 350 punti, per quanto non sia drammatico, l'abbiamo avuto nei momenti peggiori a 530, 540, però no, è ai massimi da inizio mese. E il tasso sui BTP a 10 anni rende il 4,75%, si avvicina pericolosamente alla soglia del 5. Il livello di tassi di interesse molto alti e spread comunque molto molto alto. Ricordiamoci che era sceso a 2,87. Sì, prima delle elezioni, no? Esatto. Allora, Guido, da te però vorrei capire una cosa. Poco fa è chiaro che noi di politica ci occupiamo quasi mai in senso stretto, ma la politica adesso vuol dire reazione dei mercati, andamento della borsa, andamento dello spread e quant'altro. Dicevo, poco fa il portavoce Crimi del Movimento 5 Stelle ha detto: beh, con un altro candidato valuteremo la situazione. È sembrata un'apertura, leggo proprio le agenzie di questi minuti. Secondo te, certificato che Bersani la maggioranza del governo non ce l'ha, ci potrà essere l'ipotesi che è circolata di dare una presidenza delle commissioni al PDL, in nome di Alfano, per arrivare a un accordo su alcuni punti di riforme col PDL, oppure si andrà direttamente al governo di scopo, cioè il governo del Presidente della Repubblica? Ma a me questo percorso, diciamo, del doppio schema, quindi fare una concessione al PDL sulla commissione delle riforme istituzionali e poi procedere con magari un altro nome indicato dal PD che però sia ben accetto magari al Movimento 5 Stelle, beh, francamente, diciamo, non mi convince del tutto. Quindi o c'è una svolta per cui c'è effettivamente un governo di prospettiva, di larghe intese, con un accordo preciso con il PDL e con la lista civica di Monti, allora questo può essere, diciamo, uno schema di gioco concreto. Viceversa, cioè che dovrebbe fare alcune riforme, quella elettorale, del Parlamento, con la politica, e poi andare alle elezioni, giusto? Ho capito bene? E andare alle elezioni con un governo, diciamo, di scopo, ma, diciamo, fondato su una maggioranza politica vera. Viceversa, altre formule possibiliste, fumose, credo che saranno all'esame del Presidente della Repubblica Napolitano, e a quel punto c'è da attendersi una scelta di Napolitano nella direzione che dicevi tu, cioè di un governo di scopo del Presidente, chiamiamolo come ci pare, che appunto fa le cose che deve fare con un orizzonte ovviamente non di legislatura ma di alcuni mesi o al massimo, diciamo, di un anno. E quindi, diciamo, abbiamo un Presidente del Consiglio e un governo di scopo nominato dal Presidente della Repubblica. Il governo di scopo che maggioranza però potrebbe avere? Nel senso che cioè il nome dovrebbe essere un nome sopra le parti, questo abbiamo capito, si è detto anche il Presidente del Senato Grasso, vediamo. Ma con una maggioranza PDL, PD e Monti, perché a questo punto probabilmente il Movimento 5 Stelle non lo appoggerebbe, a meno che non abbia dei punti, perché il Movimento 5 Stelle, per essere corretti, ha sempre detto potremmo appoggiare i singoli punti, non so, magari appoggerebbe la riforma della politica, esatto, e esatto, della legge elettorale. Esatto, presuppone comunque uno schema di accordo politico generale, forse diverso da quello, diciamo, del governissimo, che è un accordo secco, ma è chiaro che a quel punto, se l'indicazione arriva dal Presidente della Repubblica, si può ritenere che sia, diciamo, una personalità che possa raccogliere, diciamo, nel bacino dei tre, delle tre formazioni maggiori il sostegno più ampio, ma che possa magari anche in modo su alcuni provvedimenti, ripeto, non la fiducia, raccogliere anche dei consensi del Movimento 5 Stelle. Del resto con un programma appunto ben definito e con una scelta che comunque a quel punto è del Presidente della Repubblica, diversa appunto dall'indicazione che c'è stata fino adesso del tentativo di Bersani. Guido, in 30 secondi, quando è che capiremo questo? Cioè, perché il problema è anche capire, cioè quando è che potremmo dire bene, basta, Napolitano va al governo di scopo oppure c'è un accordo di grande intese su un altro nome? Secondo te, cioè i giorni proprio? Ma io voglio dire, lo capiremo il giorno stesso in cui il Bersani si recherà al Quirinale per riferire dei contatti che ha avuto in queste settimane. Quindi entro venerdì? Esatto, entro venerdì secondo me noi lo sapremo, perché credo che eventualmente il Presidente della Repubblica abbia già le idee chiare sul percorso se non funziona la formula Bersani. Almeno lui, diciamo, almeno lui. Grazie a Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore. Da Sebastiano Barigioni è veramente tutto. Domani dalle 17 in poi, 17.05, per farci altre grandi e grasse risate con Focus Economia. Nel frattempo, buona serata. Radio 24, la passione si sente.